qua. Siamo qua. Yeah. Sono qua. Siamo qua, sono qua, siamo qua. Yeah, SG, yeah. Virus T. Cosa, cosa? Cosa, cosa? QOI, gli ignobili. Ascolta. Check it. Virus? Sono qua. Little Fight, Virus T. Siamo qua. Questo suono fa così. Sono qua. Tutti insieme siamo qui. Siamo qua. Sono qua. Siamo qua. Siamo qua. L'aria incandescente sale piano piano, entra lentamente. Il ritmo in fiamme, il microfono è bollente. Ascolta questa voce, okay. Ascolta attentamente. Muovi passo passo, dai, muoviti così. Dai bimba, infiamma questo beat. Virus, tutti qua, io e Style C. Siamo qui, sono qui, siamo qui. Dai, dai, è il suo compleanno, yeah. E con go, i Bacardi go, tutti go, si stanno ubriacando. Dai, le tipe ti stanno aspettando, go. Muovendo adagio ballando. Baby, sai chi sta arrivando? Virus T, oh, e Little Fight barcollando, okay. Sempre pronti, ogni dove, ogni quando. Bella Bri, ti sto ubriacando. Ti piace il mio stile, yeah, gangsta, puoi dire, yeah, non signorile, no, rimani a sentire, sì, noi lo facciamo, okay, non ce ne andiamo, no, alza la mano, yeah, ma quanto spacchiamo. Sono qua, Little Fight, Virus T. Siamo qua, questo suono fa così. Sono qua, tutti insieme siamo qui. Siamo qua, sono qua, siamo qua. Yo, yo, nel club, nice in my feet. Cinga cinga, bling bling, rappresento Style C. Gia, cash money, yeah. Quattro riuniti, QOI, yeah, money. È la nostra città, sì. Ascolta qui, sciore, questa è la qualità. Yeah, the clown is back. Il mio sogno è arrivare con una mic back. Fa lo stesso con la Chevy Blue Magic. Ti osservo, this is fantastic, yeah. Siamo qui, il cristal nel ghiaccio, yeah. Air Force One, i piedi clown e polpacci, yeah. Siamo qui, siamo qua. Over there, one more drink, saluto prima Brito, yeah. Sono queste le mie orme, faraone su divano, yeah. Il mio flow rappo claro, claro, claro. 09 è l'anno del violento. Little Fight, a.k.a. anima tormento. La mia lirica ad alta qualità, bro. La mia lirica ad alta fedeltà, bro. Sono qua. Little Fight, Virus T. Siamo qua. Questo suono fa così. Sono qua. Tutti insieme siamo qui. Siamo qua. Sono qua. Siamo qua. You already know. Yeah. Mr. Easy, baby. Yeah. Go. Go shy. Yeah. In the club. Go shy. Okay. 09. Alessandria, siamo, yeah, qui, yeah, sono, yeah, qua, yeah, yeah, dove siamo? Yeah. Cosa? Check it.